parlavo nel precedente intervento di metafore colorite. In realtà le metafore sono espressioni verbali, non hanno connotazioni cromatiche e anche quell'aggettivo quindi è di natura metaforica. Lo si usa più o meno nel significato di vivace, eccessivo, un po' sopra le righe. Una metafora colorita in sostanza è quella che utilizza termini ed espressioni di cui di solito per convenzione sociale si preferisce fare a meno. E in genere, come nel caso in questione, si tratta di termini ed espressioni che hanno a che fare immancabilmente con la sfera del sesso. Sia come sia, non vi sarà sfuggito come il concetto di colorito abbia assunto una straordinaria importanza nel dibattito politico nazionale nella settimana appena trascorsa. È tutto a causa dell'intervento che Umberto Bossi ha tenuto allo stesso congresso di fronte al quale Berlusconi si è lasciato andare a quella sciagurata dichiarazione a proposito dei propri affetti. In quell'intervento, come ricorderete, il ministro ha espresso con una certa icasticità il suo pensiero a proposito dell'Unione Europea, ha detto che il progetto attualmente in atto non gli piace per niente, vi ha attribuito un carattere stalinista, ne ha definito il probabile esito con l'efficace neologismo di Forcolandia e ha fatto capire a chiarissime lettere che lui e i suoi con tutto questo non vogliono avere nulla a che fare. Benissimo. Essendo il governo di cui Bossi fa parte impegnato in tutt'altro senso, la cosa ha suscitato qualche scompiglio che, non potendo lo stesso governo permettersi di fare a meno del Bossi, è stato necessario in qualche modo sedare. E a tal fine molto è stato utile il termine colorito. Io l'aveva dato al Presidente del Consiglio in persona, ricordando che tutti conoscono il linguaggio colorito di Bossi e quindi adontarsi per quelle dichiarazioni significava fare una tempesta in un bicchiere d'acqua, un'altra metafora. E nonostante le precisazioni e le pedanterie dei vari Buttiglioni e Tremonti, da questa impostazione il Cavaliere non si è più schiodato. L'ha ripetuta persino all'incontro col Cancelliere Schröder venerdì, facendo mettere in qualche modo a verbale che non bisogna badare al colore e al linguaggio in cui si dicono certe cose. Beh, ammetterete che tutto questo è strano. Le metafore colorite, in fondo, vengono censurate appunto perché colorite, nel senso che quelle espressioni di solito non le si usano, ma questo non ha proprio niente a che fare con un giudizio sulla sostanza di quanto con ogni metafora si intesa affermare. Se sento lodare l'uomo politico X perché ha le palle, stavolta scusate non posso esimermi dalla citazione, potrò protestare perché l'impianto ideologico dell'analogia mi sembra sbagliato, o perché preferisco che non si parli di testicoli in pubblico, ma non per questo sarò tenuto a negare che quel signore abbia un carattere risoluto e molta determinazione nel perseguire i suoi fini. E se sostengo che il modo, il tono e il modo d'esprimersi di qualcuno sono tali per cui la sostanza di quello che dice non merita di essere preso in considerazione, e commetto quello svarione logico che si definisce un non sequitur, faccio indebitamente un passaggio in più. Gli do, oltre che del maleducato, del bugiardo o del mentecatto, e non mi prendo neanche la pena di dimostrarlo. Almeno così l'ha inteso il cancelliere della Repubblica Federale di Germania. Il presidente Berlusconi, ha raccontato Schröder sorridendo al termine dell'incontro in questione, mi ha detto in modo chiaro che certe affermazioni drastiche non corrispondono alla linea europeista che il governo italiano intende portare avanti e quindi le affermazioni di quel signore non vanno prese troppo sul serio. Con il che sembra che il problema sia chiuso. A rigore di logica il Bossi dovrebbe essere incazzato mica male, e il tradizionale incontro del lunedì sera domani potrebbe avere qualche risvolto anche burrascoso, ma la logica con queste cose non ha molto a che fare, per cui suppongo che finirà nel più classico chi ha dato agli amici come prima. Quanto il Presidente del Consiglio possa essere lieto d'avere tra i propri ministri un signore le cui parole non vanno prese sul serio, non è neanche il caso di chiedercelo. Come dicevamo prima, quell'individuo non si vergogna di niente, neanche di se stesso, figuriamoci di Bossi.